E siamo ritornati in diretta, ovviamente 451 frammenti sonori, siete sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, seconda parte della trasmissione di stasera dedicata ai piani inclinati, così l'abbiamo voluta chiamare questa puntata, ovviamente un gioco di parole tra piano e inclinato, ovviamente pianoforti acustici che vengono utilizzati in maniera anomala, inclinata appunto, in una dimensione obliqua dove lo strumento utilizzato canonicamente per molti e molti decenni viene completamente stravolto. Noi ovviamente stasera diamo dei frammenti, come d'altronde il nome della nostra trasmissione, a queste manipolazioni, a questi capovolgimenti, a queste obliquità e a queste inclinazioni, dato che musicisti, compositori e progetti che hanno utilizzato in maniera completamente rivoluzionaria il pianoforte, anche oggettivando lo strumento e cercando appunto di utilizzare lo strumento in un'ottica appunto connessa al suo oggetto materiale, fisico, dunque utilizzando le corde dello stesso pianoforte, battendo sul legno facente parte del pianoforte stesso, cercando insomma di utilizzarlo in maniera completamente differente dall'uso per cui era stato costruito inizialmente, dunque una sorta di stravolgimento connaturato all'interno dello strumento stesso. Piani inclinati si è sviluppata nella prima parte della puntata, quella che è andata in onda dalle 23:30 alle 24:30, facendo un percorso abbastanza per certi versi differenziato fra diciamo, gli sviluppi musicali e gli autori stessi. Siamo partiti con Yuji Takahashi, compositore nell'ambito della musica contemporanea e dell'avanguardia, per arrivare poi al lavoro più recente di un anno fa di Noto e Sakamoto con l'Ensemble Modern Quartet, un lavoro appunto che trova una sintesi tra elettronica, una certa anche ritmicità che può essere connessa a una techno minimale e a una techno frequenziale, ovviamente con l'ausilio di Alva Noto, e in combinazione col grande Ryuichi Sakamoto e un'orchestra appunto di quartetto d'archi. Per attraversare poi il fenomeno S, autore finlandese, estremamente interessante della nuova scena elettronica e elettroacustica, e chiudere la prima parte con Lovisoni Messina, autori nell'ambito del progetto dell'etichetta Cramps degli anni 70. Abbiamo riaperto con un genio del Novecento, ma anche dell'Ottocento, perché le sue composizioni partono dall'Ottocento, uno dei maestri di tutta una scena sperimentale che si è sviluppata poi decenni dopo, nel Novecento, soprattutto dal dopoguerra. Tutta la scena minimalista ha come riferimento musicale, come punto cardine del proprio percorso, il grande RSRT, compositore francese che ha attraversato 451 frammenti sonori in alcune puntate del passato e che da un po' non li inserivamo all'interno del nostro percorso, e direi che è un po' il principale riferimento anche della nascita di questa trasmissione, un Satie che utilizzava il piano in maniera completamente rivoluzionaria. Stiamo parlando, come nelle composizioni che abbiamo ascoltato, che tra poco vi presenterò, della fine dell'Ottocento, e lui con queste strutturazioni estremamente minimali, dove lo strumento veniva effettivamente oggettivato contro tutto una corrente dominante legata al romanticismo che spaziava attraverso suoni assolutamente edulcorati e, tra virgolette, utilizzo questo termine un po' forzato, patinate, rispetto al minimalismo, all'essenzialità, all'oggettivazione di Erik Satie. Composizioni assolutamente rivoluzionarie, ancora oggi, riascoltandola a più di 100 anni di distanza, rimangono estremamente vive, attuali, direi il termine moderne, ma forse forse più connesse quasi a un futuro sempre presente e possibile, ma che spesso ci dimentichiamo, e che Satie riusciva a rappresentare in maniera geniale attraverso le sue composizioni incredibilmente suggestive, seppur scevre di ogni romanticismo, ma ricche, ricchissime di poesia e di genialità attraverso appunto un suono che era centrale nell'utilizzazione di questo pianoforte, puntava moltissimo sull'elemento suono e soprattutto sugli spazi e sui silenzi. Tutte le composizioni che si sono alternate, che fanno parte di un'unica opera che abbiamo ascoltato all'inizio, nell'apertura della seconda parte della trasmissione, hanno i silenzi, i secondi di silenzio come struttura portante del brano compositivo. Da qui nascono tutte le composizioni rivoluzionarie di Cage, ma di molti altri musicisti d'avanguardia del dopoguerra del Novecento. Eri Satie l'abbiamo ascoltato da un splendido cofanetto che è Piano Music, è composto da 5 volumi, questo è il volume secondo, e abbiamo una vera opera costruita in maniera geniale dal Shen DG, che è appunto un'etichetta tedesca che ha fatto un lavoro splendido attraverso la interpretazione e l'esecuzione del grande pianista Stefan Schleiermacher, che abbiamo avuto modo di mandare in passato all'interno di 451 e che abbiamo avuto modo anche di ascoltare dal vivo all'interno di un'edizione di Angelica, dove lo stesso presentava due autori semi sconosciuti scoperti da pochissimi anni nella scena dei primi del Novecento, estremamente sperimentali e d'avanguardia rispetto all'epoca, appunto parliamo dei primi 20 anni del Novecento. Eri Satie, quest'opera è datata 1893, Danse Gothiques, dove appunto si intervallano varie composizioni e dove la serialità anche dello sviluppo melodico e armonico si intervalla attraverso appunto queste pause, questi silenzi fondanti che liberano il suono e creano uno spazio aperto dove la composizione, ma anche la sensazione nell'ascolto del suono, risulta assolutamente incredibile. Da Eric Satie passiamo attraverso un musicista recente, un autore giovane della scena a fine anni 90, inizio anni zero. Parliamo di Jean-Louis Fofchamp, che in un'opera presenterà una sorta di dualismo tra due piani, dove anche qui il minimalismo, ma la timbrica del suono delle note più basse, evidenzia un'attenzione verso questo tipo di approccio sonoro nei confronti di uno strumento straordinario a livello di potenzialità sonore come il pianoforte acustico. Ce la andiamo a sentire, opera dove sono presenti, si intervallano, si intersecano ben 5 pianisti: Laurence Cornetz, Kat Vevand, Jean-Louis Fofchamp, Stefan Ginzburg e Jean-Louis Plotier. Ce la andiamo ad ascoltare, ovviamente ancora buon ascolto con Piani Inclinati. Thank you. E siamo rientrati in diretta, sempre 451 frammenti sonori, e abbiamo fatto un mix anche abbastanza azzardato. Siamo passati attraverso la composizione di Jean-Luc Fachin insieme agli altri pianisti che hanno collaborato in questo lavoro assolutamente splendido nella scena della musica contemporanea, nell'utilizzazione soprattutto dei pianoforti in maniera assolutamente atipica. E andiamo dunque a ricordare gli altri musicisti insieme a Jean-Luc Fachin, Cat Devineau, Laurence Gournay, Stefan Ginsburg e Jean-Louis Pelloutier. E dopo questa composizione praticamente a 5 pianoforti alternati a coppia, siamo andati a scovare un'altra mezza chicca degli anni 70, sempre Cramps Records, nei lavori più strettamente connessi a Nova Musica, tutta la scena, diciamo la collana curata dalla Cramps riguardo alla musica sperimentale d'avanguardia. Abbiamo scovato Joan Hidalgo. L'album è un album assolutamente importante nella scena della musica d'avanguardia degli anni 70 della Cramps Record, anche per l'utilizzazione appunto in questa maniera assolutamente dissonante, aritmica e disarmonica del pianoforte. In realtà è un concepto al work per 12 pianoforti creato appunto da Joan Hidalgo. L'album è Tamaran, gocce di sperma per 12 pianoforti. Anche il titolo chiaramente estremamente ricco di suggestioni e di riferimenti, anche di contrapposizioni terminologiche e concettuali, ma interessante appunto la vitalità, il vitalismo permeato e permeante il concetto di questo album, è la diciamo attraversabilità, l'inserimento all'interno della materialità dei pianoforti, di questi 12 pianoforti, connessi anche a questa forte immagine delle gocce di sperma, connessa appunto ai 12 strumenti cardine di stasera, di questa puntata di 451 frammenti sonori. L'abbiamo anche intersecata quest'altra sperimentazione assolutamente geniale, provocatoria, connessa a tutto il movimento politico artistico d'avanguardia della connesso poi strettamente legato alla Cramps Records. Siamo arrivati invece a un album appena uscito proprio da un paio di mesi, di un'altra formazione che attraversato 451 ma per vie assolutamente differenti. Parliamo di Chicago Underground Duo con l'album Boccanegra, uscito appunto nel 2010, da pochissimo tempo, dove il pianoforte invece utilizza e viene utilizzato in questa chiave minimalista, ipnotica e ciclica, attraverso anche altri inserimenti di una sorta di pianola che si interseca a questa linea ritmica e melodica del pianoforte ripetuta e ciclica, attraverso invece una melodia piuttosto anche assurda nella strutturazione, ma anche dissonante rispetto invece alla linea portante del brano. È un brano abbastanza anomalo rispetto a un disco che sentiamo in sottofondo, si muove sull'orizzonte tipico del Chicago Underground Duo. Usiamo questo termine tipico un po' forzato, perché in realtà il loro jazz elettronico astratto, connesso anche a delle dimensioni funk e jazz rock degli anni 70, riportate, ricollocate in questi anni attraverso una stretta connessione dialettica nel linguaggio dell'elettronica, ma che anche in altri album questo progetto inseriva delle parti molto vicine all'avanguardia, alla contemporanea elettronica, che utilizza appunto il pianoforte o strumenti acustici in maniera assolutamente differente dalla utilizzazione consueta che facevano anche e che fanno i Chicago Underground Duo, spostandosi completamente nell'ambito sonoro e avvicinandosi invece proprio a tematiche musicali molto connesse e strettamente legate alla trasmissione di stasera dedicata appunto ai piani inclinati. In questo abbiamo voluto fare questa forzatura e connettere progetti differenti anche come portata, come idealità e concettualità e anche come percorso storico attraverso appunto questi 4-5 pianisti, anzi molto legati alla scena contemporanea francese, per spostarci invece all'avanguardia provocatoria e anche dadaista di Joan Hidalgo e arrivando invece a un altro tipo di contesto come quello di Chicago Underground Duo. Ma è anche questo il modo di volerci spostare attraverso delle inclinazioni, delle obliquità all'interno della sperimentazione connessa al pianoforte acustico, inserito sia in chiave fondante protagonista ma anche in chiave laterale, come abbiamo ascoltato in Chicago Underground Duo e in parte anche in altre composizioni che abbiamo inserito nella prima parte della puntata. E ora, aprendo diciamo con Chicago Underground Duo l'utilizzazione del pianoforte acustico e del piano inclinato all'interno del contesto, usiamo questo termine un po' restrittivo, del jazz aperto, elettronico e d'avanguardia, presentiamo il prossimo lavoro, che invece è un altro progetto che spesso ha attraversato 451, molto amato dal sottoscritto, cioè il progetto dei Nex, formazione australiana che si muove in questo jazz minimalista e ciclico, ipnotico, già dalla metà degli anni 90, che ha fatto uscire l'ultimo lavoro, Civil Water, dove appunto anche qui il piano è utilizzato in maniera appunto ciclica, come abbiamo già ascoltato in parte con i Chicago Underground Duo, e verso una dimensione dove anche l'aspetto sonoro diventa fondante nella costruzione musicale. Ci andiamo a sentire un frammento da una parte finale di un brano lunghissimo, un'unica traccia in questo lavoro Silver Water, uscito nel 2009, che rappresenta un'altra visione, un'altra inclinazione del piano concepito stasera da 451 frammenti sonori. Thank you. Siamo rientrati in diretta dopo aver sfumato in parte questo splendido lavoro che dura ancora parecchio di Venex, Silver Water, uscito appunto a fine 2009, un lavoro splendido, anche questo di Nex, molto ipnotico, dove appunto pianoforte o comunque strumenti connessi al pianoforte, pianole elettriche, intersecate appunto al pianoforte acustico, creano questa dimensione, anche organi che sentiamo in sottofondo, creano questa situazione, questa dimensione sonora. Ipnotica, ciclica che crea appunto un tappeto molto vicino, comunque connesso alle elaborazioni sonore già sviluppate in precedenza da Venex, con una dimensione però forse più attenta al suono e meno strettamente legata alla dimensione, al linguaggio jazzistico che è proprio di questa formazione musicale australiana. Ma anche qui troviamo appunto una dimensione di elaborazione dello strumento pianoforte in maniera assolutamente inclinata, dunque scivolante e staccata da una dimensione tipica nell'ascolto e nella visione, anche immaginazione dello strumento musicale, uno dei più importanti della storia musicale dell'Occidente. E da Venex, con questo album di ultima uscita, abbiamo percorso e abbiamo chiuso, diciamo, questa dimensione che abbiamo voluto creare, anche se parziale, di questa trasmissione appunto dedicata ai piani inclinati. Scusate, ma la tosse a quest'ora parte senza preavviso, anche se in realtà la voce va tranquillamente, ma si vede che l'umidità di questa serata bolognese è abbastanza penetrante anche qua negli studi di Radio Città del Capo. Devo dire che stasera è una dimensione plumbea, ma tutta la giornata di oggi sembra di non essere neanche entrati in estate, cioè paradossalmente oggi è il primo giorno d'estate, ma sinceramente un clima da un anno a questa parte veramente impazzito, come d'altronde forse siamo impazziti noi, avendo fatto, per coloro che sono un po' più puristi nella dimensione anche dello sviluppo musicale, abbiamo collegato progetti molto distanti teoricamente nella loro formazione, nella loro estrinsecazione, ma in realtà poi, secondo il mio parere, tutto il percorso di stasera ha comunque come filo di congiunzione la dimensione proprio dell'inclinazione dello strumento pianoforte, nell'utilizzazione anche più variegata, lo stiamo sentendo anche in sottofondo, in questa dimensione ritmica, ipnotica e ripetuta di queste note accavallate che in realtà creano un unico suono, un'unica frequenza sonora, seppur sono più tasti suonati velocemente e vicini e molto incalzanti, in realtà il suono si modifica completamente creando appunto un'unica frequenza sonora. E questo è uno dei tanti aspetti dell'utilizzazione anomala, inclinata e obliqua del pianoforte acustico. E attraverso Venex dunque abbiamo chiuso questo percorso con anche il colpo di tosse finale e ovviamente vi aspettiamo noi di 451 Frammenti Sonori la prossima settimana, domenica prossima, per la prossima puntata, e chiaramente vi rimandiamo anche al blog di 451 Frammenti Sonori, che lo ricordo ancora, 451 Frammenti Sonori. Noblogs.org, e chiaramente troverete anche la playlist e altre informazioni rispetto a questa trasmissione, come le ultime trasmissioni che abbiamo messo in onda qui sulle frequenze di Radio Città del Capo. Chiaramente vi mando un saluto, una buonanotte, e ovviamente continuerà il percorso del nastrone di Radio Città del Capo, ma credo sinceramente che non c'entri nulla con la dimensione sonora della nostra trasmissione, per cui se siete un po' in questo flusso andate a fare altro, anche se non dovrei dirlo, ma siamo veramente in dimensioni completamente differenziate tra il nastrone e noi di 451. Intanto, sulle note meravigliose di questo Silver Water, splendido lavoro di Venex, vi auguro la buonanotte e ovviamente vi aspettiamo la prossima settimana, sempre la domenica alle 23:30. Thank you.